140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Università Bicocca, Milano. Il suo un 2017 d'oro con l'album Apriti Cielo e un grande tour. Abbiamo incontrato insieme a lui gli studenti della Bicocca per parlare di Frontiere. Mannarino. Alessandro, posso chiederti intanto che periodo stai vivendo? Perché è un periodo in cui si parla tanto di te. Che effetto ti fa questo, poi, questi concerti in cui i social sono stati così riempiti dalle tue foto in concerto? Insomma, in questo periodo ci sei tantissimo. Cosa ne pensi? Ma ancora non ci ho avuto il tempo di pensarci. Lo sto vivendo giorno per giorno, concerto dopo concerto, e finora non è che ho avuto grandi scombussolamenti, anche perché questo è un lavoro che va avanti sempre, appunto, disco dopo disco, concerto dopo concerto, piano piano, da tanti anni, quindi non è un successo improvviso che ti dà la testa. Noi stiamo viaggiando dall'Università Bicocca, dove hai incontrato gli studenti. Ti hanno accolto con ovazioni, ma anche conoscendo perfettamente i testi delle tue canzoni. Questo che impressione ti fa? Beh, mi rendo conto che le canzoni che ho scritto hanno una forza che nella mia camera, quando le scrivo, mai penso che abbiano. E che poi diventano di tutti una volta che escono nei dischi. E quindi mi fa piacere che molti giovani, molti studenti abbiano come riferimento queste canzoni che, al di là della ricerca musicale, delle melodie, sono canzoni che trasportano delle idee, che hanno delle idee dietro. Questa è una storia da raccontare, può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te come nel mare una sardina, vago nell'eternità e sto qua giù dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, vogliono chissà sapere particolari dei testi, vogliono sapere i tuoi riferimenti, vogliono sapere delle tue immagini. Ma a te che impressione fa dover spiegare le tue canzoni? Perché ci sono molte cose che poi sono tue, magari non le vuoi spiegare. Sì, infatti non le spiego sempre tutte. Quelle che mi fa piacere spiegare, che insomma può essere utile, anche gratificante per me analizzare una frase e far comprendere con quelle parole quali sfumature si possono cogliere. Però è vero che le canzoni secondo me non vanno spiegate, perché spesso anche nelle mie canzoni ci stanno diverse chiavi di lettura, e è bello anche lasciare a ognuno la libertà di vivere il testo come una cosa sua, perché dal momento che esce fuori in un disco, come dicevo prima, non mi appartiene più. Non domanda, Alessandro. Quando tu hai raggiunto il primo posto in classifica con questo album, ti importava qualcosa? Cioè, per te un primo posto? Sì, cioè, che cosa significa? Nel senso, certo, sì, ti ha messo l'ansia, che cosa è successo? No, quando ho scoperto che eravamo primi in classifica, io sono stato contento per tutti quelli che hanno lavorato al disco, come una gratificazione, diciamo, e anche un riconoscimento. E poi sono stato contento pure culturalmente, diciamo, perché primo in classifica quella settimana, piuttosto che esserci la canzone che diceva amore mio sei arrivata, sono felice, amore mio sei andata via, mi manchi, ci stavano canzoni che hanno dei temi dentro giganteschi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Mannarino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.